Torno alla campagna Tre Titoli, che è estate e si muore di caldo. Scendo perché mi fa piacere tornare a salutare Marcel, una donna ivoriana che gestisce un bar nella sperduta campagna foggiana. Lungo una strada diritta che apre in due la pianura, ai lati casolari abbandonati dai braccianti italiani decenni fa e adesso ripopolati dai nuovi braccianti africani ed est europei. A 500 metri dal bar, il casolare. Ogni tanto ci sentiamo per telefono con Marcel. Mi fa piacere vedere come se la passano adesso in piena stagione di raccolta. Per prima cosa, quando mi vede, mi fa vedere al cellulare le foto di sua figlia, ha 20 anni e studia a Bergamo. Ordino una birra, il solito peroncino, bevo insieme a un ragazzo polacco, lo guardo e penso al centinaio di ragazzi polacchi scomparsi da queste parti negli ultimi anni. Esco dal bar, un sole terribile. Mi siedo. Bevo un goccio di birra e lì vedo te, una bella ragazza nera, Caterina ti chiami, accanto a te tua figlia, Laura. Sei piuttosto ubriaca e da come la bambina ti si rivolge si direbbe che le relazioni tra di voi siano invertite. Mi dici che vieni dalla Sierra Leone, sono salita a Napoli con mio marito, ma lui mi picchiava, sono scappata, parli lenta. In una lentezza propria dell'alcol, raddoppiata dal sole, poi d'un tratto spaventata esclami «The world is wicked!» Il mondo è malvagio e piangi. Io ti accarezzo la nuca, i capelli. Tu ti sollevi dal tuo scivolare, il corpo si fa più eretto sullo schienale della sedia di plastica bianca. Basta parlare, parlare fa male, balliamo. Balliamo. Arriva un vecchio, la camicia sbottonata, emana una sensazione di sporco. Papà, lo chiami. Papà. Il papà ti si getta addosso, ti si siede quasi in braccio, si strofina, la mano che ti cerca il seno, è impaziente. Aspetta, gli dici, e lui è impaziente, no, adesso, no, più tardi. Tu adesso vuoi me, io voglio stare con te, mi dici. Io sono un'opportunità migliore di questo vecchio laido e sporco. Mi accarezzi, mi abbracci, mi chiedi il numero di telefono. Io non voglio stare con te, Caterina. Però se avete bisogno di qualcosa, tu e la tua bambina, io ci sono. You love her more than me, mi rimproveri, tu ami lei più di me. Da dentro il bar, Marcel manda musica africana, muove alla danza, io mi alzo, accenno un passo, tu Caterina mi vieni davanti, ti muovi, scivoli, ma Laura è qui, vigila, viene, ti trascina via, tu ti fai trascinare via e dici... Lei è l'unica cosa che ho. Marcel ti ha detto tante volte, dalla a un educatore, portala in collegio, ma tu sei clandestina e dici, io non voglio perderla. Accanto a me viene un signore alto, distinto, è rumeno. Posso parlare con te? Mi dice, io qui non parlo mai con nessuno, mi hanno rubato parole. Poi viene un ragazzo ghanese, Kojoli si chiama, sempre ubriaco, ho visto Marcel sbatterlo fuori dal bar tante volte, non fargli mai credito, non ha mai una lira. Allora tu, Caterina, ti alzi, riprendi a ballare, anche Marcel balla adesso, e con Kojoli che è di casa, e si alza anche lui, fanno tre, adesso finalmente ti rivedo addosso quel dolce sorriso da bambina, guardo Laura, e anche lei sorride, adesso che sua madre balla con un uomo che non può comprarla. Arriva un'auto, una vecchia Fiat Tipo. Scende una giovane donna, alta, corpulenta, i capelli raccolti in treccine color nero ruggine. Tu ti alzi, fai per andartene, ma la mamma che gestisce il casolare, la mamma ti dice sit down, ti ordina sit down! Tu siedi e riprendi il lavoro. Torni ordinatamente nelle fila di quell'esercito nel quale sei stata arruolata. Divisione di una legione straniera dalla quale una volta entrati è così difficile uscire, è una rete potente. Se tu tu sei l'anello debole. Una rete che arruola decine di migliaia di ragazze africane ed est europee. L'Italia ha il record in Europa. 115 vittime di tratta a scopo di sfruttamento sessuale ogni 100.000 maschi adulti. 115. In Germania 45, 27 in Francia. Guardo Marcel che è tornata dietro il bancone a dare peroncini, a vendere sigarette sfuse. Guardo Laura che ha preso il mio cellulare, ci gioca, ha già capito tutto, è svegliissimo. Guardo te Caterina, che ti sei seduta e hai ripreso il lavoro. Qualcuna delle persone che ho incontrato nel mio viaggio in Italia. Abraham, Mohammed, Adi, Hassan, Bogdan, Ahmed. Ahmed, viens s'il te plaît. Abraham, il viaggio. È un segno per loro che portammo alla loro progenie su di un vascello stracarico. Per loro ne creiamo di simili sui quali si imbarcano. Se volessimo li annegheremmo e allora non avrebbero alcun soccorso e non sarebbero salvati se non da una nostra misericordia e come temporaneo godimento. Corano, versetto Yassin. La benzina è finita. Non c'è più da mangiare né da bere. Avete sbagliato. Tutto intorno solo l'azzurro del cielo e del mare. Avete cominciato a morire 3 al giorno. All'inizio eravate in forze e spingevate i corpi giù dalla barca. Ma adesso non riuscite a fare più nemmeno quello. Le forze vi mancano e quelle pochissime rimaste dovete preservare. I morti restano con voi. Poi qualcuno, Abraham, ha un'idea. La barca è ferma. Ma i corpi che abbiamo buttato in acqua, no! La corrente li porta via. Guardate! Spariscono alla vista. Forse riescono ad arrivare in Italia. Leghiamo i corpi insieme con una corda. E la corda leghiamola alla barca. Ci trascineranno loro. Qualcuno dice, non è possibile, ma Abraham è convinto. E in quella situazione ci vuole poco per convincere gli altri. Se è destino, accadrà. Abraham è musulmano. Se Dio vuole che moriamo, moriremo. Se Dio vuole che viviamo, vivremo. I morti possono essere un veicolo della sua volontà. Legare i morti è stata la cosa più dura della tua vita, sai. Passare la corda sotto i corpi, sollevarne 5 e poi gettarle in mare. I corpi pesano troppo quando non si mangia da 15 giorni. Ti ha dato un po' di forza l'idea di non vedere più quella donna morta che ti sta davanti. È morta prima la sua creatura che ha buttato in acqua. E poi lei è morta con la testa riversa sul bordo della barca. Le sono rimasti gli occhi mezzi aperti. La palpebra lascia scoperta mezza pupilla. E quella mezza pupilla ti guarda. Guarda, è come un'anima rimasta impigliata nel passaggio. E tu ti immagini che lei stia ostruendo quel passaggio, e se non passa lei, non passate neppure voi. E voi non volete restare su questa barca neanche dopo morti. Il tuo desiderio, Maria, è tutto verso la luce di Dio, la salvezza. Tu desideri Dio, e quella donna morta dalla mezza pupilla aperta è un ostacolo che ti fa impazzire. Quando Abraham ha proposto di legare i morti, hai pensato? La prima doveva essere lei, quella madre morta della mezza pupilla aperta. Ed è stata per buttarla che hai detto di sì. Ti sei fatto forza e hai convinto anche gli altri che avevano ancora qualche forza per aiutarti. Abraham mi ha convinti che avrebbe funzionato. E anche se nel tuo paese avevi incominciato a studiare ingegneria, ci hai creduto. Invece i corpi fanno da ancora la barca, non vedi, Malik? La barca è ancora più ferma di prima. Ma a questo punto non hai più nemmeno le forze per tenere gli occhi aperti. Figurarsi se riesci a tagliare una corda. Sei lì, siete lì, in balia, aspettate. Abraham ha smesso di pregare. E come è morto? Non sai come non sia morto davvero. Il cuore batte così lento, ma batte ancora. Sono le luci di un'alba, la diciottesima da quando siete partiti, e dopo qualcosa arriva una barca. Tu riesci ancora ad aprire gli occhi e alzare la mano. La guardia costiera che si avvicina, e dopo qualche ora tu adesso hai, sei vivo, sei arrivato all'asciutto in terra siciliana, e anche Abraham è arrivato alla costa siciliana con gli occhi chiusi. Se volessimo li annegheremmo, e allora non avrebbero alcun soccorso, e non sarebbero salvati se non da una nostra misericordia. e come temporaneo godimento. Dei mirti, un etiope parlava a Zena, parola di tagliola. Diceva un ingegnere, mezzo apo, mezzo niente, che è un poeta, basta una parola sola per scintillare mondi e sciogliere frontiere, saltare oltre ogni retta via. Parlò finalmente il giovane ingegnere, io voglio la mia parte di Dio, parte di anarchia. L'anarchia non smette mai di domandare, diceva la donna dei deserti, e il giovane sostava e aveva voglia di baciare quella bocca sopra i suoi seni offerti. Dopo il caffè speziato, mentre colava miele, schiudeva amore, splendeva fatica. Parlò ancora una volta il giovane ingegnere, io voglio la mia parte di Dio, la mia parte di anarchia. Stare dentro un cerchio che non ha circonferenza, un cerchio con il centro in ogni dove, rispondere in silenzio, sguardo all'orizzonte, altrove. Bello il deserto, puro e pulito, e nulla ci può marcire. C'è solo pietra e silenzio infinito e nessuna voglia di morire. Risplende forte e lieve il pensiero che fa, illumini la via, e come cantasse al mondo intero, io voglio la mia parte di Dio, la mia parte di anarchia. Brucia di vita in quelle notti deserte al centro del cielo. Brucia di vita, il giovane aspetta e si trova disarmato e solo. Strappati il cuore, il poeta declama, voce saggia di follia. Strappalo e mangia, che fatica ti ama, lei è la tua parte di Dio, parte di anarchia. Stare dentro un cerchio che non ha circonferenza, un cerchio con il centro in ogni dove, rispondere in silenzio, sguardo all'orizzonte, altrove. Prospettiva e delle macerie, da dentro una casa di pietra da ristrutturare, il muro è ancora da crollare, ma le macerie ci sono già. Mohammed ha 22 anni, se esce dalla casa vede i monti di marmo. In paese tutti i portoni d'ingresso sono incorniciati dal marmo, la piazzetta è pavimentata dal marmo, le scalinate hanno gli zoccoli di marmo, qui tutto è marmo. Ma Mohammed non è lì per questo, non sa nulla della storia del paese. Un emigrante all'inizio è come un non luogo ambulante, non si accorge dove finisce, non conosce la lingua del posto, tantomeno può immaginarsi le sue memorie. Mohamed certo non conosce le memorie di un paese come Torano, dove i cavatori erano tutti anarchici e cantavano «Nostra patria è il mondo intero, nostra legge è la libertà ed un pensiero». Mohamed era in Tunisia, ma suo fratello era di là dal mare, anche suo zio era di là dal mare. Avevano un permesso di soggiorno in Italia, un posto qualunque, nei cantieri anche loro. Mohamed era abituato ad avere a che fare con calci e mattoni. Suo padre ha da sempre un negozio di materiali edili. Vieni, gli dicono, qui di gente che chiede lavori nelle case ce n'è tanto. Vedrai, prima o poi trovi un contratto e ti metti regolare. Mohamed sta per ripetere il viaggio che tanti altri hanno fatto prima di lui. Non è difficile trovare i contatti. Come gli altri, anche lui paga un bel po' di soldi. Parte di notte con il gommone. E anche lui una raga, un bruciatore di documenti. Mohamed brucia nome e passato, pronto per il mondo nuovo. Di là ci sono suo zio e suo fratello che l'attendono. Non parte alla cieca, sa dove andare, c'è una rete che l'aspetta e in qualche modo lo proteggerà. Così Mohamed arriva a Torano, in questa casa da ristrutturare tra le macerie. È stata una ragazza marocchina a portarlo lì. Lei è sposata con un italiano e hanno comprato una casa in questo paese sotto i Monti di Marmo. Gli hanno dato una piccola stanza dove dormire, il tetto è marcio, piove dentro. Per adesso non fa freddo, quando l'estate sarà passata l'umido gli impregnerà le ossa, si scalderà con due maglioni e un fuoco. Non la vive come una disgrazia questa, si tratta di farsi uomini, è la sua scuola di vita, gli tocca, lo sa lui. E la sua ragazza che ha lasciato il paese, anche lei lo sa che è così che funziona e che per tanto tempo dovranno stare lontani finché lui tornerà in Tunisia o lei lo raggiungerà, in ogni caso lo aspetta, gli è promessa. In questa piccola stanza lui ha solo un fornello per farsi da mangiare e un mangianastri per riempire il vuoto. Alla sera scende in fondo al paese, vicino alla casa del popolo, al negozio che fa ad alimentare, tabaccaio, ecco. Lì c'è una signora che lo accoglie, lo saluta, ormai lui è uno del posto. L'ha sentita cantare anche un paio di volte una vecchia canzone, Addio Carrara Bella, ecco. Da lei compra quelle due o tre cose che alla sera si scalda sul fornello. A settembre arrivano due rumeni, Adrian e Robert, padre e figlio. Sono stati chiamati per rifare il solaio, sono bravi a fare solaio. Poi Adrian ti racconta che per un po' ha lavorato nei capannoni della zona industriale di Massa, dove fabbricano gli yacht. La più grande ditta della zona, che come sempre si serviva di un appalto ad una microimpresa, un verniciatore di rappallo che a sua volta si serviva di sei clandestini, Adrian, il figlio Robert e quattro marocchini. Per i responsabili della ditta andava benissimo così. Adrian e Robert hanno lavorato per lui due mesi, per 1.000 euro al mese, ma non hanno avuto niente. Il capo, dice Adrian, gli ha dato l'assegno per pagarci tutti e lui è scappato. Non si è più fatto trovare e così noi non abbiamo visto niente. Posare travi, gettare cemento, stendere reti, gesti per fare un solaio che si imparano in fretta. Ieri sera Mohamed ha lavorato con Adrian fino alle 20 di sera, sistemando le due travi, facendole affondare nel muro 25 centimetri per lato. Ma adesso arriva il padrone. Nervoso come sempre, sa tutto lui. No, non così, le travi devono andare nel muro mezzo metro. Adrian non è d'accordo, il muro è alto 4 metri, rischia di non trovare appoggio, è pericoloso. Ma che pericoloso, dammi qua, ti faccio vedere io. Prende la mazza, va all'esterno da rudere, sale sul ponteggio esterno e comincia a boccare il muro da fuori. Adrian resta dentro sul ponteggio interno, alle sue spalle Mohamed continua a spaccare la pietra per farci la traccia per la trave più grande. Adrian ti sorride, gli sorridi, si gira verso il muro. Mohamed, dov'è? Robert è corso da suo padre, Adrian non è svenuto, si muove, muove mani e piedi, si tocca tutto il corpo, percorre con l'attenzione, nulla di rotto. Mohamed dov'è? Non lo so, non lo vedo. Era qui dietro di me, io non mi sono fatto niente. Mohamed, dove sei? Robert comincia a tirar via le pietre, il padrone italiano entra velocemente in casa, vede la scena. Un uomo steso immobile, un altro che cerca sotto le pietre un corpo scomparso e sepolto vivo. Cazzo, dice, questa è roba di galera. Non ci pensa su oltre, volta le spalle alle macerie e se ne va. Adrian e Robert sentono il motore del suo camion avviarsi e svanire. Passano minuti estenuati, sotto le pietre silenzio. Silenzio di Robert che si affanna a spostare le pietre. Poi Robert scopre il corpo. Papà, guarda. Adrian si avvicina trascinandosi con le braccia. Vede il volto di Mohammed, il sangue dalla bocca, anche le formiche. Una fila di formiche sul suo viso. Guarda se respira, falli qualcosa, muovilo! Adrian esce dalla casa trascinandosi sui gomiti come nelle esercitazioni militari. Si trascina verso un cumulo di pietre e lì si appoggia. Alle costole rotte le comincia a sentire. Arriva Robert. Papà non respira più. Che cosa facciamo? Come che cosa facciamo? Chiamo l'ambulanza. Chiamo la polizia. Il padrone di Mohammed era pregiudicato e andato al patteggiamento, imputato di omicidio colposo in quanto capo cantiere, condanna di pochi mesi. Anche per la moglie marocchina, quella che aveva ingaggiato Mohammed, che non è andata al patteggiamento, anche per lei condanna di pochi mesi. Tu Mohammed, dalla tua prospettiva, dalle macerie, puoi vedere che cos'è giustizia adesso. Mohammed era clandestino. La vergogna. Facciare? Facciare non è difficile. Posso essere un po' all'occhio? Ta tanto quando sei clandestino. Devi comunque stare all'occhio, ti fai furbo. Poi che cazzo di male c'è a vendere fumo? Che poi a parte la maggior parte dei clienti siete voi italiani, eh? La polizia lo sa bene, se dovesse mettersi a cercare tutti quelli che vendono fumo, non farebbe altro. Ma se spacci nero o coca, rischi di più. Guarda che anche quel business ha le sue regole. Ci sono posti dove la polizia sa che si vende droga e ci si fa, ma non ci mette bocca. Lo sanno bene che i tossici ci sono e ci saranno sempre. Gli informatori controllano. Tra i drogati è pieno di gente ricattabile. Ma guarda che anche lì è. La maggior parte sono italiani, anche se un bel po' di fratelli si fanno nero. Quando sei disperato è più facile. Mi fanno pena, mi fanno anche schifo per come si riducono, ma lo scelgono loro. E se non ci sono io a venderglielo, lo farebbe qualcun altro, io devo pur mangiare, no? Io comunque per un po' ho spacciato. È facile se vuoi. A Torino una grande fetta del mercato in mano ai senegalesi, specie cocaina. Sappiamo quanto vuoi italiani con la cocaina. E la cosa buffa è che io prima di arrivare a Torino sono stato in Toscana e lì i senegalesi sono considerati immigrati buoni, quelli bravi, non fanno mai casino. Vendono sulla spiaggia, borse, pareo, collanine, lavorano nelle concerie e per il resto del tempo suonano, cantano, ballano. Qui a Torino invece è tutt'altro. Qui semmai hanno paura di noi. Qui semmai siamo i negri cattivi. E qui a Torino è stato facile per me trovare dei fratelli per dirmi dove rivolgermi per essere nel giro giusto. Spacciando puoi tirare su dai 300 ai 2000 euro al giorno, cazzo. Rischi come qualsiasi venditore ambulante che vende merce contraffatta, ma guadagni di più. E commercio per commercio, illegalità per illegalità, invece che vendere CD, DVD che arrivano da Napoli, borse di merda che arrivano da Firenze, io compro droga. Si resta commercianti, si lavora in proprio, si acquista e si rivende, se ti va bene. In nemmeno un anno ti sei ripagato di tutte le spese e mi sono via un bel po' di soldi. Anche se un bel po' di fratelli si disprezzano. Ti creano un vuoto intorno, ti isolano perché vendi droga. Anche la mia madre giù è stata isolata per questo fatto. Io sono giorni che non riesco a chiamarlo, non mi vuole parlare. Ma io ho sempre pensato, vi facciamo un servizio a voi italiani. Ho deciso di smettere quel giorno che al parco Stura sono arrivati i sbirri per una retata. Di quando in quando i comitati, i cittadini e i giornali fanno casino e loro fanno questa scena e poi tutto torna come prima. È solo che quel giorno per una scena del genere sono morti due ragazzi. Sono buttati nel fiume cercando di scappare e sono affogati. I soccorsi sono arrivati quando ormai i miei fratelli non c'erano più da un bel po'. E quel giorno ho detto, basta. Basta. Ho trovato posto in un cantiere. Muratore. Il solito clandestino che lavora nei cantieri, paga da fame, sicurezza niente, ma non avevo più addosso quel senso di vergogna, di onore, di dignità. Poi però sono stato preso durante una retata, portato nel CPT di via Brunelleschi e cacciato in Senegal. Ma proprio adesso, adesso che io non spacciavo più, tanto valevo. Caccia! protezione, offre il corpo alle tempeste, sopra un legno che non corre, rischia delle sei vite, questo avida di occhi azzurri. Col bastone scaccia l'animale impertinente, dentro il campo il bastone fuori non si sente. Col bastone scaccia l'animale impertinente, dentro il campo con l'approvazione della gente. La nostra piroga solca il mare del destino, è il coraggio dell'attesa, luce di un nuovo mattino. La nostra piroga solca il mare del destino, ma se riesce ad arrivare sei solo un altro clandestino. Tra le dita scorre il cielo, nostra patria e il mondo intero. Tra le dita scorre il cielo, nostra patria e il mondo intero. Sulla colonia mercato Sofia sta dietro il palco e lui si fidano che sembra un bianco, gli occhi chiari giusti per un venditore. Con gli occhi lui vedeva oltre il mare, si immaginava altre vite, altre scarpe ed altri mari. La pressione e ti spinge sul barcone, ma ti dico cosa è la parabola che ti alza la pressione e ti spinge sul barcone. Dal bastone salza l'animale impertinente, clandestino per lo regno della morta c'è. La normalità. Marco, arriverà la fine del tempo, sì o no? Ti ho già detto che può essere, però il punto è che non finirà la vita. Come no? C'è l'inizio o no? Non ci credo all'inizio. Come non credi nell'inizio? No. Qualcosa che ha un inizio o una fine. Ecco appunto, io ti ho detto che non credo all'inizio. L'inizio è per gli illusi. Uno si illude di credere nell'inizio, in un'origine, in qualche cosa da cui è nato tutto, ma non ti rendi conto che tutto è già qui davanti. Ma pensa al Big Bang, il Big Bang. E l'inizio no? Il Big Bang sta scritto nel Corano. Nel Corano si dice che la creazione è nata con la condensazione di tutti i gas. Hassan, non mi converti. Non c'è bisogno, non c'è bisogno, Ari Bonjou. Arriverà il giorno che ti convertirò. Un grande filosofo ha detto che un uomo con una grande scienza va direttamente a Dio. Poca scienza allontana da Dio. Gran bella maniera di glorificare. E sai chi era quel grande filosofo? No. Al-Ghazali. Sei sicuro? Forse non era lui, sì. Non mi ricordo, però comunque era un grande filosofo. Mi dispiace, quante cose mi scordo. Ma qui non c'è mai tempo per leggere. Tutti i libri che ho a casa mia. Torno a casa stanco dal lavoro, ora che preparo la cena sono già pronto per andare a letto. Non c'è mai tempo per leggere qui, sempre lavorare. Non c'è tempo, non c'è tempo. La fine di questo tempo, senza tempo, Hassan non riesce mai a vederla. Non viene mai per lui il settimo giorno, il venerdì della creazione, il giorno del riposo e del respiro. Hassan conosce tre lingue. È laureato in biologia, ma fa l'operaio nei cantieri. La sua è una storia normale, non ci sono morti qui, non ci sono barche alla deriva, non ci sono prostituzione, storie di droga, CPT, no, questa è una storia assolutamente normale. Io sono un normale moderno proletario o sottoproletario, le definizioni le lascio a voi, io sono un aspetto di parametrazione. Sono uno delle centinaia di migliaia di unità produttive necessarie per la vostra economia. L'edilizia tira, è uno dei pochi settori produttivi che cresce e crescendo dà respiro al PIL, prodotto interno lordo, del nostro paese. E il respiro che gli dà è precisamente quello che toglie a me. Eppure non sono clandestino, io sono regolare, con un regolare permesso di soggiorno, ma il regolare non è che un potenziale clandestino. Non puoi perdere il lavoro, altrimenti addio permesso di soggiorno, allora sei sempre sotto ricatto. Non ha tempo di leggere i suoi libri Hassan, ma sa leggere benissimo lo sfruttamento che gli si scrive addosso, la potenza del dispositivo messo in atto dalla Bossi-Fini, dal mercato del lavoro, dalla legislazione sugli appalti che fa proliferare le microimprese. E dall'assenza di controlli sul lavoro nero. Certo, sai quanto incide il lavoro nero sul PIL italiano? No. Il 20%. E quanto incide su quello dei paesi più avanzati d'Europa? Il 4%. Sta parlando di normalità. Lo capite? La normalità più normale. Insomma, io quando sono arrivato in Italia, era l'ottobre del 2002, mi avevano detto, in Italia si prepara una sanatoria. Ed era l'occasione per mettermi in regola. Da un anno vivevo in Francia, clandestino, facevo il muratore. E solo che l'Italia allora mi offriva una possibilità. Eh sì, infatti della tua laurea ti potevi fare solo un cappellino da carta. Alla mia laurea ci avevo già rinunciato. Insomma, io sono subito sceso in Sicilia perché mia cugina ha sposato un italiano. Vivono in provincia di Agrigento e lì dopo 3 mesi ho trovato lavoro in una stalla. Lavoro nerissimo. 400 euro al mese, tutto il giorno, anche sabato e domenica, per 3 mesi di seguito. Dormivo nella stalla, in un piccolo spazio, in angolo vicino all'entrata, 4 metri quadrati, lettino turca e fornello. Dare da mangiare alle vacche, mungere a mano, pulire, forca e carriola, tirare su letame, portarlo fuori su un camioncino, dispenderlo nei campi del padrone. Erba, latte, merda, erba, latte, merda. Erba, latte, merda. E se restava del tempo? Erba, latte, merda. No, portare gli ulivi, zappare, tirare su muri e muretti. Sempre a disposizione. È lì in questa stalla di erba, latte, merda che Hassan attende. La clandestinità del resto coincide sempre con l'attesa. L'attesa di una luce, di un nome che non vengono mai. E se vengono, vengono come viene la grazia. Hassan aspetta di essere messo in regola. Sua cugina gli trova un padrone finto, virtuale, che lo assume. Io per avere il permesso di soggiorno ho dovuto pagare circa 3.000 euro, 2.000 euro al datore di lavoro e 800 euro allo Stato italiano. Considerando quello che aveva guadagnato, 3 mesi di lavoro sei già in perdita di 1.600 euro, gran bell'affare. Poi dici dove sei andata. Poi torno nei cancieri, prima Modena, poi La Spezia, qua vicino. Come facevi in Francia, insomma? Sì, ma qui è diverso, qui in Italia ti sfruttano di più. Qui ci sono più clandestini a lavorare nei cantieri e capita spesso che non ti paghino. Ma là in Francia io non ho trovato discriminazione e razzismo come qui da voi. Sono preoccupato. Insomma, io a casa ho 2 figli, la madre, mia moglie. Devo accettare ogni condizione di lavoro, come adesso, anche in nero. Adesso sto lavorando a Spezia, nel pieno centro della città, sui ponteggi. Siamo in 4, tutti negri. Io sono l'unico ad avere il permesso di soggiorno, gli altri tutti clandestini. Togliere l'intonaco vecchio, rovesciare sacchi di calce e bastarde nella bettoniera, mescolare, portare l'intonaco nuovo sul ponteggio e intonacare ancora. Il tutto per 30-40 euro al giorno. A giornata. E vabbè, che differenza c'è? E io non sono pagato a ore. La giornata non ha orari. Inizia alle 7:30, finisce quando non si vede più la cassuola. La giornata è quando si vede il sole. E se parli troppo, bauscia, e non ti danno più da lavorare. E se non lavori non ti rinnovano il permesso di soggiorno. E a volte ti picchiano anche. Ma il clandestino in questura non va. O se ci va lo rimandano al suo paese. Protestare non protesti con chi protesti a San. Non porti voti, anzi, ne togli. C'è una sola parola per descrivere questa normalità. C'è una sola parola per descrivere questa normalità. Serve. Andato al settentrione, l'hai maledetto tanto, oh moglie mia. Peggio però la disoccupazione, e dalla nostra terra manda via. La Svizzera ci accoglie a braccia chiuse, ci mette il pane duro dentro in bocca. 3 anni l'ho inghiottito sto paese, 3 anni carcerato alle baracche, alla periferia in mezzo ai fossi. Siamo 40 uomini e una radio. E vado in centro a fare 4 passi. Le strade sono piene, piene d'odio. Lo sfruttamento è calcolato bene. Ci carica a fatica ogni minuto. È un orologio di gran precisione. La Svizzera cammina con i nostri fiati. Padroni sulla terra ci volete, per far la fame e per tirarne conto. Ma verrà il giorno che la pagherete, e che non partirà un emigrante. Verrà il giorno che la pagherete, e che non partirà un grande. Fuoco che s'alza davanti, in ogni campo un nemico ci sta. Guarda le fiamme che s'alzano d'intorno, brucia ogni cosa che voce non ha. Guarda quanto rigoglio di Roma, occhi gonfi di specchi e realtà, cuori pieni di vuoto e paura, mano che tutto consumerà. Guarda il marchio dell'uomo nuovo, testa alta e fierezza gli dà. Brucia il senso di un tempo sbagliato, lava colpe che lui non ha. Guarda quel passo dell'oca che avanza, in vesti morbide così charmant. Guarda quell'uomo che ride da squalo, sta digerendo la sua civiltà. guarda che bello questo giro tondo, che la terra cascare ormai fa. Guarda che rotola in un precipizio, con gli occhi chiusi a questa immensità. Al mondo in viscere e parole versate e messe a seccare al sole, si versa il sangue sparso, si aprono le vene, si perde tutto ciò che ci appartiene e non c'è mai scampo allo spazio aperto. Accoglie il sangue il prossimo deserto e vive il sangue un nuovo ricambio di stagione, il cuore ha la sua Bogdan. Mettersi in un ristorante come questo dove ad accoglierti al parcheggio c'è pure un autista in livrea, in Villa delle Ninfe. È un così bel posto, ci si mangia così bene, frequentato da bella gente, vino greco di tufo, gamberoni e scampi, la pace del cielo stellato, questa è la vita. Sotto i piedi dei clienti, nei sotterranei del ristorante, in uno stanzone buio angusto, sotto la vita. Tu Bogdan sei disteso sul materasso, fatichi a respirare, di tanto in tanto cacci un grido, il cliente di sopra non sente nulla, se sentisse scapperebbe dal Villa delle Ninfe immediatamente, ma non lo sa. Il dottore ieri è venuto da te, ti ha dato fasciatura, pomate, antibiotico e ti ha detto coraggio, vedrai che passa. Il padrone ha detto: hai sentito cosa ha detto il dottore? Che non stai per morire, che puoi continuare a lavorare. Allora pulisci queste cozze, che dovresti ringraziarmi, che ti faccio continuare a lavorare. Qualche giorno fa un cliente è venuto e ha ordinato una frittura. Una frittura buonissima. Senza sapere che gli 80 litri dell'olio serviti per preparare quella frittura erano caduti addosso al lavapiatti polacco di nome Bogdan. 80 litri d'olio bollente sulla carne producono un inferno. Questioni di secondo e terzo grado direbbero all'ospedale, ma all'ospedale, Bogdan, nessuno ti ha portato, lavori in nero. Non sei clandestino, i polacchi sono cittadini europei, ma il padrone che ti ha assunto 20 giorni fa non può denunciare di impiegare stranieri in nero. E che facciamo, figlio mio? Dio mio, che facciamo? Resti qui, nello scantinato, continui a lavorare e vedrai che guarisci, tanto te ne rientri qua alle 7 della mattina e te ne esci alle 2 di notte. Dove te ne vuoi andare? Conciato così. Resti qui, è semplice. Tanto te ne sei venuto dalla Polonia per questo. Vorrei negarti questa possibilità. Come? Ah, senti, dammi retta. È meglio così. E dammi quel telefonino. Lo so che sei solo, ti piglia lo sconforto, magari vuoi chiamare qualcuno, ci dici pure che ti hanno rinchiuso dentro lo scantinato. Tu sei un uguaglione intelligente, eh? E lo capisci da solo. che è meglio così per tutti. No? Se clandestino etimologicamente significa colui che sta nell'ombra, allora Bogdan, tu hai vissuto la condizione di clandestinità più assoluta. Bruno Potenza si chiama Obarone. È una genia la sua. Altri ristoratori del lungomare napoletano sono suoi parenti e uno è esperto del ramo. Lui sa come trattare con uno come te, Bogdan. 15 euro al giorno bastano per un Bogdan. Sono passati 20 giorni e non ti sei ripreso, anzi. Fatichi a respirare, fatichi a parlare, non riesci più ad alzarti col letto, le gambe sono debolissime, ormai grumi di sangue dappertutto, fa la pomata e antibiotico, non sono servite a nulla finché una notte due tuoi colleghi connazionali, che fino adesso non avevano parlato per paura di perdere il lavoro, decidono che non puoi più stare lì. Pietà. Paura di essere accusati di complicità in un omicidio. Fatto sta che vengono, ti prendono sotto braccio, ti portano dalla cucina, sulla soglia del cortile, lì ti mettono sul ripiano di un carrello, ti nascondono dentro e sotto i sacchi neri dell'immondizia, ti portano in mezzo alla strada e lì ti lasciano come si lascia un rifiuto. Tu hai una tessera telefonica internazionale e strisciando sull'asfalto ti trascini a una cabina telefonica, fai il numero di tua madre. Tua madre chiama l'ambasciata polacca, di lì il consolato polacco a Napoli, i carabinieri arrivano. Bruno Potenza, un parone, è stato accusato di sequestro di persone e riduzione in schiavitù. Bogdan è tornato in Polonia, è al Villa delle Ninfe. Al Villa delle Ninfe continuano i meravigliosi banchetti di nozze e le splendide cene sotto questo cielo stellato! Abbiamo raccontato storie accadute ad altre persone, storie e persone che ho incontrato nel mio viaggio in Italia. Adesso quest'ultima storia invece è accaduta proprio a lui, all'attore, Mohamed. Ahmed per gli amici. Io mi chiamo Mohamed Ba, sono senegalese e vivo in Italia ormai da 11 anni. Sono padre di due bambine di 6 e 3 anni. Faccio il mediatore culturale. Provo anche a fare l'attore. Mi occupo di educazione alla mondialità nelle scuole, ovvero ogni anno incontro in media 6.000 ragazzi dalle scuole primarie, secondarie di primo e secondo grado. Quindi farlo per 8 anni significa circa 48.000 ragazzi studenti. 31 maggio, Milano, ore 19.45, è una giornata soleggiata in via Espinasse, zona Certosa, alla fermata del tram 19. È una bella giornata, io sono contento, ho l'appuntamento con la mia fidanzata. Attorno a me una ventina di persone, prevalentemente sudamericane. Si avvicina un uomo alto sui 30 anni, testa rasata, che mi dice: qui c'è qualcosa che non va. È italiano. È un'affermazione la sua, non è una domanda, e io un po' sorpreso Dico, no, anzi, non mi sembra ci siano problemi, anzi, tutto a posto, io aspetto il tram come tutti gli altri. Ah, aspetti il tram, mi dice. Si gira e torna nel gruppo delle persone che aspettano il tram. E dopodiché si gira di nuovo e mi infila il suo coltello nell'addome. Mi accascio, mi colpisce una seconda volta vicino all'ombelico e lo tira in su. Lancio un urlo e nel ritirare nel suo coltello mi sputa in faccia. Rimane lì un attimo, io da terra vedo le sue scarpe, anfibi neri, la gente intorno è già scappata. Lui pulisce il coltello con un fazzoletto, provo a rialzarmi. Lui raccoglie un casco da motociclista che aveva appoggiato per terra e camminando tranquillamente se ne va. Io perdo molto sangue e caso vuole che quel giorno sono vestito tutto di bianco. Maglietta bianca, pantaloni bianchi, calze e scarpe bianche. Urlo, chiedo aiuto, non c'è nessuno intorno, se non le auto che passano. Allora cerco di fermare gli automobilisti, ma questi si spaventano e inseriscono la retromarcia. Perdo molte forze, mi gira la testa, sto per svenire, ma so che svenire significherebbe la morte sicura perché non c'è nessuno intorno. E riesco ad appoggiarmi alle macchine parcheggiate per raggiungere Viale Certosa, molto più trafficata. E lì mi metto in mezzo alla strada, allargo le braccia e dico: o mi finite voi o allora chiamate i soccorsi. Qualcuno mi evita, qualcuno frena e cado a terra. Le due facce che mi ricordo sono una signora che era lì vicino a me che metteva dei fazzoletti nei vari buchi che avevo nell'addome. È un poliziotto in borghese, sì, ero sulla barella nell'ambulanza, che aveva un postigiallo che mi chiedeva come era vestito il mio aggressore, in che direzione era andato. Poi la corsa all'ospedale. Io sono stato aggredito alle 19.45 e ricoverato alle 20.50 precisamente, quindi sono rimasto lì circa un'ora a perdere sangue, nell'indifferenza totale. Di solito, quando uno si presenta all'ospedale con ferite d'arma da taglio, il referto del primario fa scattare d'ufficio le indagini. Ma nel mio caso non è accaduto così. I miei amici il giorno dopo, lunedì, sono andati a fare la denuncia, ma è stato detto loro che avrei dovuto essere io a farlo, io che ero all'ospedale ancora sotto morfina. Claire, che è la mia dolce metà, è andata dal poliziotto di turno per chiedere, per saperne di più, ma le è stato detto: è una disputa fra stranieri finita male. I giornali, la stampa, un trafiletto su Repubblica e sull'Avvenire, Radio Popolare, sì, hanno fatto quello che hanno potuto. Eravamo alla vigilia delle elezioni, era un tema scomodo da non toccare. Io non cerco vendetta. Abito il terzo piano senza ascensore. E una volta dimesso, sei dei miei amici sono venuti a prendermi a casa di peso, due di qua, due di là, due che mi prendono le gambe, per portarmi al commissariato di Quarto Giaro e fare la denuncia, ovvero 13 giorni dopo. In 13 giorni uno si fa crescere la barba, i capelli, va in capo al mondo. Se non fai scattare le indagini subito, che senso ha fare la denuncia? Se incontrassi il mio aggressore, lo abbraccerei anche, ma mi sento abbandonato dalle istituzioni. Io ho paura. E anche i miei connazionali hanno paura. Sanno che c'è in giro qualcuno che cerca di fargli la pelle e sono consapevoli che non ci può essere una tutela dei loro diritti. E nessuno esce di casa senza avere un coltello in tasca, preferiscono finire in carcere per detenzione di arma da taglio piuttosto che finire all'ospedale con un coltello inficcato nel cuore. Sono preoccupato anche per le mie bambine. Hanno il colore della pelle diverso. Ma sono italiani e ciò che è capitato a me potrebbe capitare anche a loro. Io sono la seconda vittima di questo uomo. Precisamente un anno fa un altro senegalese è stato colpito dentro il tram 14 a Milano. Con la stessa modalità. Qui c'è qualcosa che non va. La pugnalata e lo sputo. Solo per lui non ha potuto sporgere la denuncia. Non ha il permesso di soggiorno. Non ce l'ha. Criminale di questo patto sociale, l'accumulazione primitiva di ogni cosa viva in un caravanserraglio subumano, dalle terre siciliane fino al centro di Milano, in un campo di cucina, al mercato, in un cantiere, l'importante è non vedere. Servi che servono a servire. E il fatto di morire è solo un incidente, eventualità incresciosa, una cosa da niente che chi serve ha ben scritto sulla pelle questo niente. Non è per niente strano, dalle terre siciliane fino al centro di Milano, in un campo di cucina, al mercato, in un cantiere, l'importante è non vedere. Uomini disabili, fantasmi della notte, con lingue troppo esposte si chiudano le bocche e tornino al silenzio che compete ad ogni servo buono in un caravanserraglio subumano, dalle terre siciliane fino al centro di Milano, in un campo di cucina e il mercato di un cantiere importante. Grazie. Grazie. Il regista dello spettacolo, Renato Sarti. Bravo.